ci sono più le mezze stagioni, di Roberta Giordano. E non so se dipende dal fatto che non ci sono più le mezze stagioni, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questo impazzimento generale. A volte mi dico sarà l'inquinamento, a volte forse invece gli uomini o gli esseri umani sono sempre stati più o meno uguali a se stessi, con cicli, ricicli. Perché stavo guardando adesso sul sito, per esempio, di Repubblica.it, di Ecclestone, un pezzo grosso, lo sapete, della Formula 1 internazionale, che dice Hitler sapeva bene come fare le cose, no? Perché dice in un'intervista al Times, quindi non un'indiscrezione che è passata così da un amico o da una persona che stava lì a origliare, che poteva riportare come riteneva opportuno, no, proprio dal Times, sposa la tesi secondo cui il totalitarismo è indice di efficienza. Vorrei che questa idea si diffondesse un po' troppo. Ultimamente la democrazia, dice, non ha fatto poi così bene a vari paesi, soprattutto alla Gran Bretagna. Ma ecco, scusate, volevo giusto dare un segno dei tempi, che in realtà poi i tempi forse a volte sono sempre gli stessi. Sì, lo si diceva una volta, Hitler c'è stato, c'è qualcuno che ci crede ancora, qualcuno che magari mira a questa posizione. Va bene, comunque siamo insieme anche oggi, come tutti i sabati, Roberta Giordano con voi. Vi ricordo che insieme cerchiamo un po' appunto di commentare così con libertà di espressione le notizie della settimana, i fatti di questi giorni, quindi i più freschi possibili, quelli di questa settimana che si sta chiudendo. E per voi c'è sempre il numero verde disponibile, che è 800 24 00 24. Cosa vi ha colpito dei tantissimi fatti? Nelle ultime due settimane sembra che ci sia stata forse anche una concentrazione maggiore di fatti, di notizie particolari, che in altri periodi dell'anno, anche se è sempre fittissimo ovviamente l'agenda, diciamo, delle notizie mondiali. Poi la gran parte sono quelle che poi non vengono pubblicate o non si sentono per questioni di tempo. Comunque, se c'è qualcosa che vi ha colpito in modo particolare, se volete intervenire su un qualsiasi fatto, notizia di questi giorni, qui non ci sono più le mezze stagioni, il numero, ve lo ricordo, numero verde quindi gratuito, 800 24 00 24. Mio ospite e, come dico io, opinionista estemporaneo di oggi è Salvo Sottile. Salve a Salvo, ciao Salvo. Ciao Roberta, buongiorno e buongiorno agli ascoltatori. Salvo è giornalista di Mediaset, caporedattore della cronaca del TG5 e lo ricorderete, è stato testimone delle più importanti vicende siciliane degli ultimi 20 anni. Lo abbiamo visto forse sulla strage di Capaci, tu sei stato uno dei primi, Salvo, che aveva fatto anche noi. Sì, ero anche molto giovane, quindi molto più veloce di adesso. Si acquisisce esperienza e si perde magari in altro, però insomma, sì, no, adesso sì, insomma, però ero, sì, avevo appena cominciato, avevo all'epoca 19 anni ed ero l'unico corrispondente del TG5 in Sicilia, quindi rispetto, diciamo, alla macchina della Rai, che era un po' un gigante rispetto a noi che eravamo il topolino, la differenza era che noi eravamo un po' più veloci, forza anche del fatto che eravamo molto più giovani ed eravamo molto più entusiasti motivati. A volte sì, quando si è una cosa che nasce da poco. E Salvo ha scritto un nuovo libro pubblicato di recente, che è più scuro di mezzanotte, una storia di mafia, visto che tu, pubblicato da Sperling & Kupfer, insomma, dicevamo, sei stato testimone di fatti così importanti che riguardano la Sicilia, hai raccontato una storia romanzata, poi le cose sono molto credibili comunque, no? Molto, sì, è una storia romanzata perché in realtà Più scuro di mezzanotte è un giallo, è un mistero da risolvere, c'è una donna scomparsa nel nulla, la moglie di un criminale, e poi c'è un'altra donna, una donna magistrato, che cercherà di trovarla, e per colpa di questa ricerca finirà per dubitare perfino di lei stessa, della sua stessa ragione. La mafia è soltanto una cornice all'interno di Più scuro di mezzanotte, che è un romanzo che, oltre a scandagliare l'universo degli ultimi corleonesi rimasti al loro posto, rimasti a contendersi le briciole del potere mafioso in Sicilia, scandaglia anche molto l'universo femminile, la difficoltà tutta moderna di accettarci per quello che siamo, con i nostri difetti, con i nostri pregiudizi. Le due donne sono una cosa all'inizio di questo racconto e diventano un'altra alla fine. Sono nate e cresciute a due latitudini opposte della stessa città, questa Palermo che è improvvisamente silenziata. Se ci fate caso, ormai la Sicilia, Palermo in generale, assomiglia alla Svizzera, non si spara più un colpo di pistola, non si pente più nessuno. La mafia fa di tutto per dimostrare che non esiste, che non è mai esistita. Ecco, all'interno una nuova strategia questa, insomma. È una nuova strategia, è una strategia che Cosa Nostra ha scelto per guardare al futuro pescando dal passato. ha imparato dai suoi stessi errori, e dopo gli attentati a Falcone e Borsellino, dopo gli omicidi di donne, di bambini, adesso c'è una nuova mafia che torna al passato, sostanzialmente agli anni 70, diventa quasi la garante di una sorta di pax mafiosa in cui non si deve più sentire nessun rumore, perché nel rumore si proliferano gli affari, col chiasso invece no. Ecco la differenza sostanzialmente con il passato. I boss non si fidano più di nessuno, non hanno il terrore che i loro uomini li tradiscono, e hanno passato il testimone del loro potere alle loro donne, alle loro mogli, alle loro sorelle, che sono diventate parte integrante della vita mafiosa in Sicilia. Grazie Salvo, stavo ascoltando con molto interesse, anche mi piace il fatto che tu abbia messo comunque nel bene e nel male due protagoniste, due donne insomma del tuo romanzo. Sì. Comunque poi ritorneremo su questo, se gli ascoltatori certo, vorranno tornare a parlare della situazione. So che tu sei a Ischia per il premio Ischia. Quindi sì, sono a Ischia per il premio Ischia, ma non sono io il premiato ovviamente. Sei lì da cronista o comunque da rappresentante sì. Del TG5. Esatto. Salvo, allora tra pochissimo cominciamo a buttare lì alcune delle tantissime notizie di questa settimana, mi dirai sono un po' pronto, il tuo parere. Vuoi, hai le cuffie lì a Ischia? Ho le cuffie pronte, benissimo. Pronto alle domande, dai. E adesso però, come sempre, prendiamo anche un punto di vista extraplanetario. Riflessioni da Marte. Il titolo che darei a queste considerazioni marziane questa volta è "A volte ritornano". Non so se si usa anche sulla Terra, ma qui si dice quando rifà capolino sul pianeta qualcosa che pareva ormai, come si può dire, lontano nel tempo, no? Ebbene, ritorna per esempio l'ortofrutta brutta. Avete presente quelle carote bitorzolute, quelle melanzane con delle strane protuberanze, no? Molto un po' inquietanti? Quelle albicocche con vari inestetismi. Ecco, l'ortofrutta, appunto, brutta ma buona, almeno così si dice. Sì, perché la Commissione europea ha deciso di abolire i rigidi standard, soprattutto estetici, no? Di frutta e verdura, per la vendita di questi prodotti. Sarà un bene o sarà un male? Chi mangerà, vedrà. E a proposito di ritorni, dall'aspetto, diciamo così, non molto appetibile, torna sulla scena calcistica Luciano Moggi. Avete presente l'ex direttore generale della Juventus, rinviato a giudizio perché, perlomeno accusato di essere il grande puparo del calcio combinato e degli arbitri obbedienti? Ebbene, in questi giorni circolava insistente la voce che sarebbe diventato consulente del Bologna Calcio. E beh, tutti abbiamo bisogno di consigli, naturalmente, no? Ma i tifosi della squadra del Bologna pare non abbiano gradito affatto, organizzando una rivolta dai toni decisamente inequivocabili. E così Moggi, già inibito dalla Federazione Calcio per 5 anni, anche se bisogna dire che l'inibizione non sa nemmeno dove stia di casa, Moggi per il momento resta a guardare, ma assicura, appunto, tutt'altro che inibito, la mia rete è intatta, operativa in pochi minuti. E sempre a proposito di "a volte ritornano", torna il principio internazionale di non interferenza, apposta per l'Iran, con tutto quello che sta succedendo in questi giorni. Ma come, non si era messo a ferro e fuoco l'Iraq per esportare la democrazia, quindi intervenendo, insomma, a volte le cose ritornano, forse per convenienza. E speriamo almeno che non ritornino più disastri come quello di Viareggio, si parla di cedimento strutturale, purché, insomma, ci auguriamo non sia la metafora di un paese. Salvo, ci sono già ascoltatori in diretta, poi chiedo di avere ancora un po' di pazienza. Il numero verde è 800 24 00 24, se vogliono intervenire appunto sui fatti della settimana, ce ne sono già diversi, però faccio un riassunto proprio estremo di qualcosa, delle tante cose di questi giorni. Salvo, allora, per esempio, ovviamente il disastro di Viareggio ha così terribilmente colpito il nostro paese. Martedì, ricordo, ci sono i funerali e lutto nazionale, martedì ancora scosse in Abruzzo, poi per la politica. Le candidature in questi giorni per il PD, no? Ci sarà il congresso a ottobre, e Franceschini e Bersani in questi giorni, adesso è venuta fuori anche la candidatura di Ignazio Marino, un po' a sorpresa comunque. Sempre per la politica, Nichi Vendola, presidente della regione Puglia, che ha azzerato in questi giorni la giunta, il pacchetto sicurezza che è diventato legge. A proposito di sicurezza, poi ci sarà probabilmente Valeria Della Valle, la linguista della Sapienza di Roma, che già in ascolto, e le dirò che vorrei chiedere qualcosa sul senso della sicurezza, linguistico ma anche sociologico, no? Dalla sicurezza dei treni, degli aerei, alla sicurezza in senso sociale, insomma, di convivenza sociale. Poi l'aereo yemenita che è precipitato nell'Oceano Pacifico e questo miracolo di questa ragazzina 14enne che è sopravvissuta, la pesantissima situazione in Iran, che già si ricordava, l'esercito americano che sta cominciando a lasciare l'Iraq, la Corea del Nord che continua a lanciare missili, mentre sento della musica, un tango sotto. Cosa c'è sotto di te, Salvo? Non lo so, credo che ci sia qualcuno che stia suonando. E poi, vabbè, un po' di folklore. E questo rumore mi insegue continuamente. Un po' di folklore. La condanna storica per Madoff, 150 anni di prigione al finanziere americano, protagonista della più grande frode finanziaria della storia. Lui almeno ha detto il processo, non ci sono scuse, non ho scuse, vabbè, almeno ha ammesso. Poi, anche questa è una notizia che trovo interessante, anzi epocale. In India l'omosessualità non è più un crimine, finalmente ora è legale, non verranno più arrestate, incarcerate, torturate le persone. Il caso Consulta, con la cena dei giudici della Corte Costituzionale che si devono pronunciare sul lodo Alfano, con lo stesso Alfano e Berlusconi, questa cena che ha creato polemiche. E poi ce ne sono moltissime altre, la morte di Pina Bausch, no? La madre del teatro danza europeo, grandissima artista tedesca. Il tennis, non so se sei appassionato di tennis o di sport, Salvo, ma ancora una volta Wimbledon le due Williams, incredibili queste sorelle. A volte mi chiedo anche psicologicamente il battersi tra sorelle a quei livelli altissimi, tesissimi, sì, dove c'è credo il gioco. Che poi il grado di parentela sia annullato da competizioni di questo tipo, no? Poi alla fine, perché inevitabilmente più si alza la posta in gioco, più come dire, la sfida annulla tutto quello che c'è dietro. Penso credo, di anche sì, se non si riesce. Che leghi le due sorelle, no? Veramente una cosa particolare. E poi, vabbè, naturalmente gli strascichi della morte del re del pop, Michael Jackson, la battaglia legale da una parte per i beni e per i figli, e poi martedì i funerali che forse vengono annunciati come più imponenti della storia. E vi ricordo a questo proposito che li seguiremo per Radio 24. Io ci sarò in diretta martedì dalle 21 alle 22 per seguire i funerali, per parlare anche con voi ascoltatrici e ascoltatori, se volete intervenire in diretta. Vi ricordo, avremo quell'appuntamento martedì alle 21. Salvo, c'è qualcosa in particolare su cui ti vuoi soffermare? O... Ma, sicuramente mi ha colpito, intanto cominciamo dall'estero, mi hanno colpito sicuramente i funerali di Michael Jackson e come sono stati organizzati. Leggevo stamattina che questa grande compagnia AEG, che aveva sostanzialmente organizzato i grandi concerti di Michael Jackson, secondo alcune indiscrezioni adesso vorrebbe prendere uno stadio, credo quello dei Los Angeles Lakers, per far diventare questi funerali sostanzialmente nazionali e molto più redditizi. Pare che al posto di Michael Jackson si debbano esibire gli ABBA. Sono stati riportati in auge con Mamma Mia, questo film, esatto, musical, grandissimo successo, cioè, di recente. È diventato un business. È vero. Ha colpito perché è come se la morte di Jackson abbia salvato Jackson stesso dai suoi stessi debiti, dalle sue stesse 500 torture. Milioni di debiti, sì, aveva. No? Sì, no. Poi è alla fine. È una cosa, no, e poi leggevo anche un'altra cosa stranissima che non ho capito, non so se dei fondi pensione in Danimarca o in Olanda che erano legati, non so se appunto al catalogo di Jackson o qualcosa del genere, adesso sono, pare, piuttosto rimpinguati, insomma delle robe, ma un business enorme intorno a questo evento. Basti pensare che un'ora dopo la morte di Michael Jackson su Amazon, che è il più grande sito internazionale dove si può acquistare musica, libri, eccetera, l'album Thriller di Michael Jackson è schizzato di nuovo in testa alle classifiche. Quindi è vero che a volte la morte può diventare un grande affare, forse il migliore affare anche dopo la vita, no? Purtroppo sì, paradossale, non so, almeno la questione è così. Purtroppo, per fortuna, chi lo sa, ognuno ha il proprio punto di vista. Eccoci sempre insieme, Roberta Giordano con voi, e mio opinionista estemporaneo di oggi è il giornalista del caporedattore della cronaca del TG5 Salvo Sottile, che ha appena pubblicato il romanzo Più scuro di mezzanotte. Insomma, abbiamo già ci siamo soffermati su una serie di cose, di fatti di questi giorni, però cominciamo a sentire le vostre voci di ascoltatrici e ascoltatori al numero verde che ogni tanto vi ricordo, perché c'è che magari chi accende in quel momento, 800 24 0024. C'è Nicola da Bologna, ecco a te la parola, Nicola. Ciao, buongiorno. Ciao Nicola, buongiorno a te. Quello che ha colpito questa settimana è stata la dichiarazione parlamentare dell'onorevole Di Pietro nei confronti dei giudici costituzionali, arrivando a chiamarli pituisti e massoni. E là mi è nata tanta la paura di vedere i germi del nazismo dentro di Pietro Italia dei Valori, una totale mancanza di tolleranza, di mi è sembrato di vedere proprio rinascere il nazismo, sono del nazista di Pietro, ecco, quello mi sta mettendo veramente paura dentro, visceralmente. Nicola, ma spieghiamo a cosa ti riferisci, col tuo punto di vista naturalmente, che è l'attacco che Di Pietro, leader dell'Italia dei Valori, ha portato in Parlamento ai due giudici della Corte Costituzionale che si erano ritrovati a cena con il Presidente del Consiglio Berlusconi e con Antonino Alfano, Presidente e il Ministro della Giustizia, due dei giudici che dovrebbero decidere appunto sul lodo Alfano, sì, sulla esatto. costituzionalità, e Di Pietro ha trovato che fosse poco congrua, esatto. poco trasparente questa cosa. Ma dichiarare che sono pietruisti e massoni questa cena, cioè là vedo proprio un'intolleranza al limite del nazionalsocialismo, cioè vedo in Di Pietro un nazionalsocialista, un nazista, e con lui, cioè, perché lui di nascosto, secondo me, ha queste idee dentro, cioè, o si fa come dico io o si è nemici, ecco. A me mi sta mettendo paura questo modo di affrontare la politica in Italia. Posso accettare tutto, posso accettare Berlusconi che va con le veline o Veltroni che va in Africa, tutto posso accettare, ma non posso accettare colui che dice o la pensi come me o ti elimino. Questo è Di Pietro. Mi sta mettendo paura perché in Italia in Parlamento c'è una zitta. Qua. Grazie Nicola, e questo è l'intervento di Nicola. E poi naturalmente io lascio sempre che un po' la trasmissione prenda la piega che date voi, cioè anche i temi, quelli che diventano centrali. Vediamo se qualcun altro vuole intervenire su questo tema. C'è intanto Gabriella da Milano. Gabriella. Sì, eccomi qua. Eccoci qua. Ciao volevo suggerire un'informazione che ho seguito questa settimana. Sì. E tutti quanti abbiamo seguito un po' i risultati delle elezioni in Iran, no? Sì. E soprattutto la reazione di una parte della popolazione che non era d'accordo con quello che sembrava l'esito ufficiale, insomma, delle elezioni. Cioè la rielezione di Ahmadinejad. Scusa? Cioè la rielezione di Ahmadinejad, no? È risultato esatto. Poco e come sospetto. Abbiamo visto, ci sono reazioni da parte della popolazione, i seguaci delle minoranze, i Musavi, eccetera. Ecco, si sa ben poco, come sappiamo, di queste reazioni, eccetera, e le seguiamo attraverso altri modi che non sono quelli della stampa e dell'informazione normale. Ho letto proprio giusto ieri o l'altro ieri di una reazione pacifica, di una forma di protesta pacifica da parte di questa popolazione non soddisfatta del voto, che è questo sciopero generale. Che viene fatto secondo le regole islamiche. Ovviamente in questo modo lo fanno per evitare delle controffensive, no? Sì. Uno sciopero normale, come siamo abituati noi a pensarlo nel mondo occidentale, lì non sarebbe sicuramente soffocato con la violenza. Ecco, questo sciopero viene fatto. Allora, intanto ci sono delle regole precise dettate dai capi religiosi e politici dell'Iran. Dunque, viene fatto, deve essere fatto per minimo 3 giorni. Questo deve essere fatto in giorni precisi. Sì, dal 5 all'8 luglio. Fatti, scusami? Dal 5 all'8 luglio, ricordo. Esattamente, per noi è il 5 all'8 luglio, poi ovviamente secondo calendari della Repubblica e calendari dell'Islam hanno date diverse, per noi vuol dire dal 5 all'8 luglio. Dovranno essere fatti dall'alba al tramonto come Ramadan, in cui si svolgerà in modo che dovranno digiunare, dovranno astenersi dal lavoro. Gabriele, ma questa cosa si svolgerà, sì. Tutto si svolgerà nelle moschee. Ecco, ma questo ti colpisce perché rispetta tutte queste regole o perché in un paese così abituato da tanti anni, insomma, alla sottomissione a un governo teocratico, insomma, significa comunque una forma di rivoluzione? C'è anche un movimento di donne molto, molto combattivo in questo momento, anche se dicevamo la repressione, l'incarcerazione sono all'ordine del giorno, no? Cos'è che ti colpisce? No, lo trovo un atteggiamento molto civile, cioè conoscendo il loro modo, il loro paese che non dà possibilità di libertà di espressione, Loro cercano la strada comunque possibile per farsi ascoltare. Hanno in mano delle carte, si giocano quelle e riescono e cercano di seguire le loro regole pur di dare un segno a questa loro voglia di esprimersi. Sì, Gabriella, trovo un modo umanamente veramente da ammirare, perché direi di sì, visto quello che rischiano, soprattutto Gabriella, lì no? Siamo in Iran, però quello che voglio dire, ecco, speriamo che la comunità internazionale sia un pochino meno così, un po' troppo prudente, un po' troppo diplomatica. Non dico che si debba fare quello che è successo in Iraq, che non andava fatto in Iraq, visto che queste armi di distruzione di massa non c'erano affatto. Però ecco, non sempre il doppio pesismo. Se è vero che bisogna essere prudenti, perché invece l'Iran è un paese veramente, realmente armato a livello nucleare, però esatto. Un po' più la comunità internazionale si potrebbe far sentire. Gabriella, ti ringrazio moltissimo. Grazie, Gabriella. C'è Daniele da Brescia. Daniele. Buongiorno. Buongiorno, Daniele. Sì. Buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità. Grazie a te per chiamare. Mi riferisco all'affermazione di Eccleston. Sì. Io non credo che Eccleston sia un imbecille, perché uno che mantiene una posizione del genere per anni non credo che sia uno stupido. Però in questo caso è una stupidaggine, perché la democrazia è sicuramente la forma migliore di governo. Quello, a mio parere, quello che fa male alla democrazia è la degenerazione della stessa, nel senso che secondo me, quando uno viene eletto, è giusto che abbia la possibilità di governare senza tante polemiche inutili, ogni piccola stupidaggine. Alla fine dei 4-5 anni di mandato parlamentare verrà giudicato, se ha sbagliato va a casa. E la democrazia è l'alternanza ed è giusto che sia così. Però dopo chiaramente non so come attuare questa cosa qua. Dove stai andando, Daniele? Ti sento in viaggio? Sì, sono in auto. Sì. Vai verso delle vacanze o comunque... No, sto incontrando... O incontrerò presto un amico e dopo vado a casa, che abito in montagna e passi la tua giornata. Grazie Daniele, buon viaggio. Allora, buona giornata. Daniele si riferiva, ve lo ricordo, a questa affermazione di Eccleston, pezzo grosso insomma, per anni leader della Formula 1, che sul Times ha detto Hitler sapeva come fare le cose. Salvo Sottile. Sì. No, mi hanno colpito ovviamente le reazioni dei telespettatori. Per quanto riguarda Di Pietro, siamo abituati al suo linguaggio acerbo. Lui è uno che prende di petto le cose, insomma, quindi ha imbastito una politica all'insegna del tintinnar delle manette, insomma, e quindi anche questo forse piace, il suo elettorato ha bisogno anche di questo. Sulla cena di Manzella abbiamo letto anche la lettera che lo stesso Manzella, il giudice costituzionale, ha scritto all'Ansa e che poi è stata ripresa da tutti i giornali, dal Corriere della Sera, eccetera. Lo stesso Manzella, tra le righe, ha detto, insomma, signori miei, di cosa vi scandalizzate? Sì, abbiamo fatto questa cena con Berlusconi, con il ministro Alfano, con Bizzini, eccetera, però in fondo poi io sono stato a cena con tanti altri, facendo intendere che oggi era Berlusconi, magari tanto tempo fa poteva essere qualcun altro. È vero che i giudici costituzionali si occuperanno del lodo Alfano. Questo forse magari è risultato poco ortodosso in questo momento. Poco ortodosso, sì, però è vero anche che i giudici costituzionali non si occupano soltanto del lodo Alfano, cioè è una consuetudine che i giudici costituzionali incontrino a volte le più alte cariche dello Stato. Adesso non so se in cene private o in occasioni di altro tipo, ma il giudice Manzella ha fatto capire che questo è avvenuto anche e spesso anche nel passato. Poi ovviamente bisogna anche capire come la notizia è stata trasmessa ai giornali, secondo me, Roberta, perché anche lì c'è un piccolo giallo da risolvere. Pare che ci sia stato qualcuno che ha fatto sostanzialmente la spia e ha dato una versione di questa cena. Poi, ma diciamo che la cena, non... che la cena c'è stata, poi al di là di come si è arrivata la notizia, qualcuno ritiene che non ci sia niente di male, qualcun altro dice bah, forse dei giudici costituzionali che si devono pronunciare su una cosa in particolare così delicata potrebbero astenersi magari da questa vicinanza. Hanno detto così... anche che sia i giudici costituzionali che gli stessi protagonisti, dal ministro Alfano al presidente del Consiglio Berlusconi, che non si è parlato della riforma della giustizia. Bisogna anche tenere conto assolutamente di questo, a mio avviso. Per quanto riguarda l'Iran, io sono d'accordo con te, la comunità internazionale forse è stata un po' troppo prudente, nessuno è un guerrafondaio e nessuno chiede ovviamente una dichiarazione di guerra, certo, all'Iran. Ci sono tante strategie da mettere appunto nei tavoli delle trattative. Certo è che questo è un paese congelato in cui la gente non ha la possibilità di parlare, non ha la possibilità di comunicare. Spesso leggevo nei blog internazionali molti cittadini iraniani non in linea con la posizione di Ahmadinejad. Avevano dei cellulari europei e attraverso questi cellulari cercavano di comunicare col mondo anche attraverso la rete, attraverso con tutti Twitter. I rischi che corrono comunque, esatto, no? Con perché tutti i rischi che corrono, finire in un carcere iraniano, assolutamente. Però abbiamo visto che già come dire, la nuova era di Obama, per esempio in Afghanistan, il nuovo corso si sta facendo sentire. Di qualche giorno fa la notizia che Obama avrebbe, attraverso i marine che sono in Afghanistan, avrebbe dichiarato guerra all'oppio, ai trafficanti di oppio in Afghanistan, proprio un tipo di strategia che invece non era stata adottata da Bush, che è vero che aveva dichiarato guerra all'Afghanistan, ma in quella parte del paese non era ancora arrivato. Quindi... anche se poi distruggere per esempio le piantagioni di oppio, si è ragionato, potrebbe anche scatenare la popolazione che alla fine vive di questo, quindi prima forse c'ha devono conquistare la fiducia, no? Sì. Eccoci sempre insieme, Roberta Giordano con voi sino alle 15, come tutti i sabati, dalle 14 alle 15. C'è come ospite oggi a Ischia, in questo momento per il premio Ischia, Salvo Sottile, giornalista, caporedattore della cronaca del TG5, testimone di importanti, le più importanti vicende in questi anni che hanno toccato la Sicilia negli ultimi 20 anni, e autore del libro Più scuro di mezzanotte. Vi ricordo il numero verde 800 24 0024 per dire liberamente la vostra opinione sui fatti della settimana. Ci sono in ascolto e in attesa di parlare Simone da Milano, Mariella da Trieste, Marco da Modena, altri ascoltatori. Adesso piano piano cerco di dare spazio a tutti. Sentirei Simone da Milano. Ciao Roberta, grazie. Ciao, per Simone. Avermi richiamato. Grazie a te. Volevo dire una cosa gentilmente, appunto, sì, a proposito dell'incontro col presidente della Corte Costituzionale. Visto con che uno è un dei tema giudici, molto delicato, sì. Si tratta di... mi sentite bene che sono, sì, in macchina? Sì, sì. Siccome la Corte Costituzionale, come il Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, sono figure di assoluta garanzia, sì, quindi secondo me è semplicemente una cosa inopportuna. Poi, come ha detto Sottile, sicuramente non avranno parlato della riforma della giustizia, però è una cosa proprio così da evitare, proprio per opportunità. In un momento in così significativo, decisivo, una scelta proprio molto delicata, secondo me avrebbe fatto meglio astenersi, tutto lì, al di là poi dei toni di Pietro, della polemica sul nazismo, io ho chiamato per quello, mi sembrava anche un po' esagerato, l'ascoltatore prima, non mi sembrava il caso. Però volevo dire anche un'altra cosa, anche che però secondo me la sinistra smetta di cavalcare questi temi tra virgolette anti-berlusconiani, cioè conflitto di interessi, corte, veline, deve trovare qualcosa di più innovativo, altrimenti ci teniamo Berlusconi altri 20 anni. Io credo che la sinistra faccia male a continuare a insistere su queste cose, al di là, ripeto, dell'inopportunità di quell'incontro. Vi ringrazio. Grazie a te Simone, buon viaggio, perché ti sento in movimento. Simone appunto si riferiva ancora alla questione della cena dei due giudici della Corte Costituzionale con il Ministro della Giustizia Alfano e con il Presidente del Consiglio Berlusconi, perché sono due dei giudici che si devono pronunciare appunto sul lodo Alfano, questo lodo che prevede la non imputabilità, processabilità per le 5 maggiori cariche dello Stato, tra cui anche quella del Presidente del Consiglio. C'è Mariella da Trieste. Mariella. Buon pomeriggio Roberta. Buon pomeriggio a te Mariella. Io volevo soffermarmi sul fatto che la frase al di sopra di ogni sospetto, come la moglie di Cesare, sarebbe molto opportuna nel nostro Parlamento, perché abbiamo un sacco di gente che è stata già condannata e continuano a fare leggi per noi cittadini. Dunque l'esempio dovrebbe venire dall'alto. Quando le cose sono inopportune, io dico che dovrebbero essere tutti specchiati quelli che ci comandano, tra virgolette. Ecco, io questo, vedere, adesso parliamo d'altro, vedere Moggi che zampetta da una televisione all'altra di quelle private, che io la sera quando guardo lo sport è da tutte le parti, a me dà molto fastidio, devo dire la verità. Perché mi interessa il calcio, però vedere questi personaggi che ancora sono in auge mi dà veramente fastidio, perché dovrebbero sparire, non nel senso, non farsi più vedere, ecco, andare a nascondersi, punto e basta, fare altre cose. E dopo la mia curiosità era rivolta ad altre cose. E vorrei sapere quanti soldi sono stati raccolti da parte di noi che abbiamo mandato gli SMS ai terremotati dell'Abruzzo, no? Lei si ricorda, no? Che abbiamo mandato tutti gli SMS. Vorrei sapere quanti soldi sono stati raccolti, perché non si è saputo più nulla. E dopo, se quelle persone che hanno costruito quelle case dove sono morti gli studenti, costruite come sono state costruite, dal momento che c'erano il piano e in ufficio tecnico ci sarà stato pure il nome del responsabile che ha fatto questi lavori, perché non si sa ancora nulla dei responsabili che hanno costruito queste case? Queste sono le mie curiosità. Mariella, spero che non rimangano soltanto curiosità, che vengano soddisfatte il prima possibile con delle risposte. Sulla questione del dove sono finiti i soldi degli SMS, anche lì mi auguro che qualcuno ci informi prima o poi. Io ti posso dire solo un grande evento al quale ho partecipato come conduttrice radiofonica, quello delle Amiche per l'Abruzzo, il grande concerto tutto di cantanti donne che c'è stato qualche giorno fa allo stadio di San Siro, enorme, con grandissima risposta di pubblico, uno stadio pieno, la raccolta di 1,5 milioni di euro hanno garantito, Laura Pausini, che ha organizzato insieme ai suoi produttori questa grandissima iniziativa, che i soldi, insomma, ci sarà tutta la tracciabilità e si capirà chiaramente dove andranno, alla costruzione di case di legno per chi adesso è nelle tende, alla ricostruzione della scuola di Amicis. Ecco, speriamo la stessa trasparenza poi in tutte le altre cose e anche nelle inchieste, perché qualche colpevole, qualche responsabilità anche nelle case, soprattutto nella scuola, nella casa dei studenti crollate all'Aquila, qualche responsabilità ci sarà pure, insomma. Marco da Modena. Marco. Sì, buongiorno. Buongiorno, ciao. A te, ciao. Anzitutto volevo fare complimenti a voi e a tutta la radio, perché vi ascolto il più possibile quando sono in macchina che viaggio. Oggi è la prima volta che sento la vostra trasmissione, sinceramente. Accidenti, come da così tanto tempo che vado in onda? Vabbè, insomma, meglio tardi che mai, Marco. Esatto, perché non viaggio mai sabato pomeriggio, di solito ne approfitto per riposare. E dove stai andando invece, se posso farmi tutto? Mi sto spostando da Pisa verso Perugia. Ah, così, per diletto o per... A Pisa per lavoro, a Perugia ci vado per questioni sentimentali. Ah, beh, allora... Bene. Senti, è una cosa fresca o di lunga durata? Bene. Regge questa cosa. Marco, sì, mi fa piacere per te. E di cosa volevi parlare? Ancora i complimenti al vostro ospite, che trovo molto professionale, molto bravo. Salvo Sottile. Grazie, Marco. Prego. E dunque, io se ho capito bene, ancora il lodo Alfano non è stato votato, non so se l'ha senato dal Parlamento, quindi ancora in oggetto di discussione. No, in realtà a questo punto diciamo che il massimo organo che si deve pronunciare sulle leggi, la Corte Costituzionale, deve dare ancora il suo parere su possibili aspetti. Perché anche il Quirinale ha proposto, o meglio, lo sta revisionando e ha dato alcune... alcune modifiche che si potrebbero apportare. Quindi non so, mi viene a pensare questo, che se i magistrati che dovranno comunque mettere in pratica e i politici che sono quelli che fanno appunto le leggi, propongono le leggi, si collaborano in un certo senso e raggiungono degli accordi per far funzionare meglio questa macchina che non lavora benissimo la nostra, o meglio alle volte ha delle mancanze, ben venga. Se il Ministro della Giustizia, il Presidente del Consiglio, chi che sia, si incontrano con i giudici e ne si confrontano, io lo ritengo una cosa positiva. Ma diciamo che se su questo che si sono confrontati, forse più che diciamo durante una cena privata, forse è meglio farlo in altre sedi più ufficiali, istituzionali. Però insomma, questo è il tuo parere. Ma privata fino a un certo punto, dato che poi lo si è saputo, o meglio, sapono in 420 e gli stessi magistrati l'hanno dichiarato senza nessun timore. Non so come dire, se uso che fa in mente. Comunque questo è il primo punto su cui volevo esibirmi. Il secondo è un po' di terrorismo mediatico in questo senso. C'è stato il disastro di Viareggio, io tra l'altro ero a Pisa, quindi l'ho vissuto nel senso a livello di commenti da gente che viene anche da Viareggio, quindi è un dramma senza precedenti, però si è sentito nei giorni successivi, in questi giorni, quando è stato riaperto il traffico ferroviario, persone dichiarare di avere paura a viaggiare, di essere spaventati se non terrorizzati. Questo non è per dire che, eppure è stato un incidente che è capitato, questa è la prima volta, incidenti ferroviari ne sono capitati altri, però sì, non è di questo genere al primo. La gente, diciamo così, si spaventa abbastanza facilmente, quindi in questi casi chiunque tende a rassicurare queste persone. È chiaro che non gli potrà dire ti garantisco al 100% che non avverrà più nessun incidente ferroviario, però si cerca di tranquillizzare, così come penso che faccia il Presidente del Consiglio quando dice la crisi sta passando. Sappiamo tutti, io sinceramente da lavoratore autonomo ho una pressione della crisi molto pesante sulle spalle, posso garantire che c'è ed è tremenda, però quando gli sento dire il peggio è passato, sono convinto che lo faccia, che debba farlo a un certo punto, perché se facesse terrorismo anche lui dicendo la crisi è potentissima, non ci risolleveremo più, sarebbe il panico. Allora, quando Marco, sento un Franceschini invece che dice sta mentendo, la crisi è fortissima, c'è, non deve mentire su questo, suscita un po' di panico. Marco, diciamo che giustamente un po' in tutte le cose non bisogna allarmare o fare del terrorismo, bisogna anche essere però molto concreti e nello stesso tempo in cui si rassicura anche procedere in modo oggettivo, concreto, operativo, funzionale, efficace, no? Che sia per quanto riguarda naturalmente la crisi economica e anche la sicurezza sui treni, perché sembra effettivamente che magari qualche lacuna sulla manutenzione, qualche maggiore attenzione, investimento magari sulle linee più redditizie, quale può essere l'alta velocità, ecco, qualche dubbio ci può essere. L'importante, dubbio o non dubbio, che si agisca nel modo più trasparente ed efficace possibile. Salvo Sottile, hai sentito questi commenti, non so se vuoi ritornare su qualcosa detto oppure sul fatto, ti volevo anche chiedere per esempio di cosa pensi della candidatura al PD tra Franceschini, Bersani e Ignazio Marino. Vedi tu cosa preferisci. Beh, no, intanto Ignazio Marino lo conosco, voglio dire, è un chirurgo molto in gamba, tra l'altro era tornato dall'America per aprire un grande centro, un grande polo proprio a Palermo, un polo di eccellenza, quindi un grandissimo professionista. Mi sembra che il Partito Democratico stia perdendo tempo, come diceva anche Marco, in questo mi trovo molto d'accordo, o l'ascoltatore di prima, adesso non Simone, ricordo Simone da Milano, Simone, sì. Perda tempo a cavalcare insomma l'anti-berlusconismo piuttosto che creare una valida alternativa, un'alternativa che passi anche per un rinnovamento della sua classe dirigente, no? In questi giorni abbiamo letto sui giornali le polemiche che hanno accompagnato la candidatura di Bersani, il ritorno tempestoso di Veltroni, l'ingerenza di D'Alema, giovani ragazze che erano state santificate, quasi diventate icone del nuovo Partito Democratico. Deborah Serracchiani, ti riferisci a eurodeputata? Io non volevo fare il nome, ma insomma, sì, Deborah Serracchiani, per dire, nel senso che aveva avuto un largo consenso alle europee, sembrava appunto la Madonna di Fatima per il Partito Democratico, poi sono iniziati i primi mugugni e i primi malumori, gli hanno detto che era petulante, gli hanno detto insomma che era che forse era troppo ingenua, troppo, perché evidentemente ho la sensazione che si gira a vuoto. Ignazio Marino è sicuramente un grande professionista, tanto di cappello come si dice, cioè un uomo che probabilmente può rappresentare una valida alternativa, così come la può rappresentare a mio avviso anche l'ex ministro Bersani. Sicuramente il PD deve trovare un suo corso, una sua strada, proprio perché come diceva qualche ascoltatore poco fa, non è che si può sempre dire che tutto va male, tutto non funziona, che parlare solo di Berlusconi, delle cose che non va, bisogna creare insomma un progetto alternativo, anche perché sennò Berlusconi rischia di vincere ancora e di restare come dire, l'unico protagonista indiscusso della politica. Per quanto riguarda la cena Manzella, sì. Ecco, la cena Manzella, insisto, intanto è una cena che è avvenuta 2 mesi fa, se ne è saputo adesso perché la storia è venuta fuori sui giornali, eccetera. Ribadisco, probabilmente qualcuno ha sollevato questioni di opportunità proprio perché i giudici della Corte Costituzionale dovranno occuparsi anche del lodo Alfano, e sottolineo anche, perché non è l'unico argomento di cui si occuperanno i giudici della Corte Costituzionale, però sappiamo che nella politica, nelle istituzioni, sovente capita che leader di opposti schieramenti, che uomini delle istituzioni si confrontino anche in cene private per discutere e confrontarsi sull'opportunità di alcune di alcuni appuntamenti politici che sono sull'agenda della settimana o del mese. Quindi ripeto e sottolineo, Berlusconi, Alfano hanno detto di non aver parlato, e lo stesso Manzella ha detto di non aver mai parlato del lodo Alfano in quella cena, era una cena privata alla presenza del Presidente del Consiglio. Lo stesso Manzella ha ribadito con orgoglio, dando tra l'altro del tu al Presidente del Consiglio, che lo rinviterebbe a cena. Dunque, probabilmente se avesse avuto la coscienza sporca non avrebbe probabilmente scritto, mi viene da pensare, una lettera pubblica all'Ansa poi ripresa. No, questo sì, certo, la vicinanza, forse così, anche darsi forse a del tu, forse per questioni formali anche, no, bisognerebbe magari tenersi un po', finché io do del tu agli ascoltatori, gli ascoltatori danno a me, cioè, no. Sì, tu dai del nessuna, tu agli ascoltatori, ma non c'è nessuna, do del tu a te, tu lo dai però a me. Però non rappresento nulla di istituzionale o di giuridico, non governo sì, questo però paese, voglio dire, poi alla fine quella questione di vicinanza sì, comunicativa. Hai ragione tu, però forse se lo stesso Manzella avesse dato del lei in quella lettera pubblica data all'Ansa e poi ripresa anche dal Corriere della Sera, qualcuno si sarebbe scandalizzato, perché sarebbe venuto fuori che magari si davano del tu in privato. Credo che lo stesso Manzella abbia voluto mettere le carte in tavola, abbia voluto giocare a carte scoperte anche nel suo rapporto personale con Berlusconi, proprio perché credo, perché il beneficio del dubbio è obbligatorio, che non abbia nulla da rimproverarsi, così come non ha nulla da rimproverarsi Berlusconi e il Ministro della Giustizia. Rieccoci insieme, Roberta Giordano sempre con voi ancora per circa una dozzina di minuti, e il numero verde per voi è 800 24 0024, c'è sempre con me anche Salvo Sottile in collegamento, caporedattore della cronaca del TG5 e autore del Più scuro di mezzanotte, questa storia romanzata che racconta una storia di mafia in Sicilia. Vi volevo dirvi, ce ne sono sempre tantissimi di fatti, ma uno di quelli che vi voglio raccontare un po' fuori dalle prime pagine è che poi anche una specie di avvertimento è necessario. Ricordatevi che col pacchetto sicurezza è passata anche una norma che equipara le sanzioni del codice della strada per chi è alla guida di un'auto, lo stesso succederà per chi è alla guida di una bicicletta, cioè se chi va in bicicletta per strada commette un'infrazione rischia altrettanto che un automobilista di perdere i punti sulla patente. State attenti che questa cosa è passata, quindi quando andate in giro in bici tanti no, vanno magari in controsenso, vanno sul marciapiede o fanno cose che non dovrebbero fare, ricordatevi che si rischia di perdere i punti della patente. L'unica cosa un po' insomma poco equa che io trovo, c'è questa disparità tra il ciclista con patente auto e quello senza patente auto, cioè quelli che non hanno la patente, non guidano l'auto, non perdono nessun punto, quelli che invece in quel momento sono in bicicletta e hanno anche la patente auto rischiano di perdere questi punti. Ecco, questo era giusto un intermezzo così. C'è il colonnello Giuliacci, tra l'altro, caro colonnello. Ciao Roberta, ciao, buongiorno colonnello, a tutti. Che sempre con grande disponibilità e grande sintesi ci dirà che tempo, questo tempo pazzo, un po' tropicale, che linea sta prendendo per i prossimissimi giorni, proprio. Beh sì, diciamo queste temperature che poi non erano eccezionali, si faceva un po' caldo soprattutto al nord e sulla Sardegna, ci sarà una modesta rinfrescante tra oggi e domani, tale da riportare le temperature mediamente al di sotto di 30-31 gradi su tutta l'Italia. Quindi il grande caldo, cara Roberta, ancora non c'è, voglio dire, no? Quello da 34-35 gradi ancora non si intravede. Mentre sarà un fine settimana così, perché oggi è bello su quasi tutta l'Italia, ma già si stanno formando dei nuvolone, come gli altri giorni, sulle Alpi, sugli Appennini, già i primi temporali che si affacciano, vorremmo dire che allora c'è una giornata come quelle già passate. No, perché sta arrivando una perturbazione, come diciamo noi, dalla Francia, e quindi rinvigorirà questa instabilità che c'è stata tutti i giorni, quindi già da questa sera temporali su molte regioni del nord, e domani temporali sia al centro che al nord su molte regioni, su gran parte del centro-nord, quindi una brutta domenica su gran parte del centro-nord, e bella invece al sud e sulle isole. Quindi se volete godere di un'ottima, di un bel fine settimana, tutti sulle isole, via, tutti in dove Sicilia, salvo sottile a Ischia, anche. Vabbè. vabbè, con lei la volevi aggiungere qualcosa? Ecco, voglio dire, il consiglio, se potete, scappate giù in Sicilia o in Sardegna. magari, potendo. Grazie, colonnello Giuliacci. Non chiediamo al colonnello dove passerà queste ore, diciamo così, di diletto, ma intanto, come sempre, grazie colonnello, a te delle giornate solari, comunque sia, al di là delle perturbazioni. Grazie Roberta, anche a te. Grazie, ciao colonnello. Buongiorno. C'è Valeria Della Valle anche, linguista della Sapienza di Roma, alla quale avevo accennato così mentre iniziavo la trasmissione oggi, che le avrei voluto chiedere delle implicazioni linguistiche, non solo, ma anche sociologiche, perché poi l'analisi di Valeria è molto ampia, sulla questione della sicurezza, no? Sì, volentieri. Ciao Valeria. Volentieri. Ci ho pensato mentre ascoltavo la trasmissione. Parto dal dire, questo un po' così per il mio ruolo di linguista, che la parola sicurezza in realtà è stata usata solo dalla metà del Cinquecento. Prima si usava una parola di sapore più arcaico che era sicurtà. E poi la parola sicurezza, insomma, se guardiamo il vocabolario, entra in tante espressioni, molte delle quali rassicuranti, no? Pensiamo alla spilla di sicurezza, quella da balia, la cintura di sicurezza, e poi la cassetta di sicurezza, la camera di sicurezza, l'uscita di sicurezza, la pubblica sicurezza, la sicurezza sociale. Quindi la parola in effetti è fatta proprio per metterci al riparo da pericoli. Ora è stata abbinata a un'altra parola che è pacchetto. In questo caso, il pacchetto della sicurezza. Legge, ora qui il pacchetto in questo senso, no? Nel senso nuovo, cioè di insieme di misure, qui ci viene la parola, ci è venuta, è un calco dalla lingua inglese. Ma l'abbinamento del pacchetto, che noi di solito abbinavamo a così il pacchetto di caramelle, no, di patatine, oppure sempre in senso di molto, molto positivo, il pacchetto vacanze, quello che si prende in un'agenzia turistica, eccetera, eccetera, quindi una parola che ha tutta una connotazione in senso positivo, unita alla parola sicurezza, che cosa mi fa pensare? Che sì, certamente è fatto l'abbinamento per metterci tranquilli, per mettere molto tranquilli i cittadini, perché la parola pacchetto evoca solo cose buone, e la parola sicurezza anche, quindi l'unione dei due termini è fatta proprio per tranquillizzare, per mettere tranquilli. Che cosa mi viene da commentare? Che però forse bisognerebbe essere sempre di sicuri e certi di quello che c'è dentro il pacchetto davvero, e cioè il cittadino si sente rassicurato, non deve pensare più a niente perché c'è qualcuno che pensa in un certo senso a provvedergli tutti gli elementi per difenderlo dai pericoli, però forse dovremmo anche sempre stare molto attento perché le parole in sé non sono obiettive, le parole possono anche mistificare e far passare per buono e rassicurante quello che forse sì lo è per noi, ma che può essere anche poco rispettoso e molto pericoloso per gli altri. Grazie Valeria Della Valle, questa è l'analisi di Valeria, linguista della Sapienza di Roma. Quante implicazioni ci sono poi appunto parlando semplicemente di parole. C'è ancora pochissimo tempo e chiedo scusa agli ascoltatori, qualche telefonata è caduta, numero verde 800 24 00 24. Faccio in tempo a sentire forse giusto Carlo da Torino. Se sei molto sintetico, Carlo, ratto come la folgore, ti direi. Come la folgore. Ho ascoltato quello che si diceva sul conto di Pietro, eccetera. Sì. Mi viene da dire che le regole e le istituzioni vanno difese in senso sostanziale e in senso formale. perché se uno non rispetta le regole e le istituzioni, quando ne avrà bisogno non avranno più valore. Cioè, se io vado a cena con qualcuno e questo andare a cena fa credere a qualcun altro che io non sarò imparziale, che l'istituto di cui faccio parte è una cosa che si può pastrocchiare, eccetera, non importa che poi davvero io sia stato onesto o disonesto, l'istituzione è già andata a remengo. Quando io ne avrò bisogno, con che fiducia mi avvicinerò a questa istituzione? Grazie Carlo, sei stato molto molto efficace e molto sintetico. Ecco qui, visto che siamo proprio, abbiamo penso 23 secondi, Salvo Sottile, se vuoi proprio concludere. No, ascoltavo con grande interesse naturalmente l'ascoltatore. La fiducia nelle istituzioni è una cosa sacrosanta, le istituzioni devono essere specchiate, anche visto che non voglio fare la difesa d'ufficio del governo di Berlusconi e di Alfano, che non ne hanno naturalmente bisogno, però certamente una questione interessante è la famosa questione morale, anche rivendicata di berlingueriana memoria. Sì, è interessante, sì, anche quello. Anche quello, secondo me, è un tema sul quale bisogna tornare. Anche a volte prendendo spunto da altri paesi come l'Inghilterra, dove per un semplice film a luci rosse si è quasi dimessa. Certamente, no? E anche a volte per non aver dato i contributi alla Golf, quindi cose. Sono molto seri da quelle parti. Grazie Salvo Sottile, ricordo grazie il suo libro voi, Più scuro di mezzanotte, la terza edizione in un mese. Ringrazio naturalmente Gigi Borghi con le sue mille braccia per le vostre telefonate. Giacomo Spunta alla messa in onda. Vi ricordo che appunto martedì poi ci ritroviamo alle 21 per lo speciale sui funerali di Michael Jackson. Che altro dirvi? Vi ringrazio, ringrazio soprattutto le ascoltatrici e gli ascoltatori. Chi è intervenuto, Roberta Giordano, vi augura un'ottima continuazione. Thank you.